Suonatori un po' suonati ma snadieri non direi. Concepimmo il nostro piano forse nel 96. Un vocale da scolare come fosse il sacro graal e scaldare la tristezza con un reel. Verso i luoghi da scoprire ci piaceva improvvisare. Tarantelle di briganti tamburiate per il mare. Si tendevano le corde per vibrare un'emozione. Non poterne più di fare un picchettone. La vita è crederci sempre, divertirsi a cantare. Un ritornello stonato, una canzone d'amore. La vita è un desiderio che si realizzerà. Prendiamo al segreto della felicità. Sulla pelle del mio banjo va la linea del destino che continua dentro il palmo della mano di una Rita. Per cantarle con un breve salto il senso della vita. Nelle notti chiare andava al suo balcone. La vita è crederci sempre, divertirsi a cantare. Un ritornello stonato, una canzone d'amore. La vita è un desiderio che si realizzerà. Prendiamo al segreto della felicità. Una torta un po' piccante da servire alla fortuna. Mille candeline spente da uno spiffero di luna. La bottiglia farà il botto quando si alzerà il sipario. Sulla festa per il nostro anniversario. La vita è crederci sempre, divertirsi a cantare. Un ritornello stonato, una canzone d'amore. La vita è un desiderio che si realizzerà. Prendiamo al segreto della felicità. La vita è crederci sempre, divertirsi a cantare. Un ritornello stonato, una canzone d'amore. La vita è un desiderio che si realizzerà. Prendiamo al segreto della felicità. Suonatori un po' suonati ma snadieri non direi. Concepimmo il nostro piano forse nel 96. Un vocale da scolare come fosse il sacro graal e scaldare la tristezza con un reel. E scaldare la tristezza con un reel. E scaldare la tristezza con un reel.